Saturo di tali deliri sulla perfezione dell'arte drammatica, una dose rilevante dei quali si sarebbe potuta estrarre dal mio cervello se lo si fosse analizzato in un qualsiasi minuto del giorno e forse della notte, a quei tempi ero come una pila che sviluppa la propria elettricità. E c'era stato un momento in cui, malato, avrei avvertito la necessità di andare a sentire la Berma quando anche avessi creduto di doverne morire. Ma ormai, come una collina che da lontano sembra fatta d'azzurro, mentre da vicino rientra nella nostra visione volgare delle cose, tutto ciò aveva abbandonato il mondo dell'assoluto e non era più che un fenomeno simile a tutti gli altri, un fenomeno di cui prendevo coscienza perché mi trovavo ad assistervi. Gli attori erano uomini della stessa pasta di quelli che frequentavo nella vita e cercavano di recitare nel miglior modo possibile quei versi di Phèdre che, a loro volta, non costituivano più un'essenza sublime individuale separata da tutto il resto, ma erano versi più o meno riusciti, pronti a rientrare nell'immensa materia dei versi francesi cui erano mescolati. Ne provavo uno scoramento tanto più profondo, in quanto, se l'oggetto del mio ostinato e attivo desiderio non esisteva più, persistevano in compenso le medesime disposizioni a una qualche elaborazione fantastica che, pur mutando d'anno in anno, sfociava in un impulso violento e incurante di ogni rischio. Quella certa sera in cui, pur sentendomi male, partivo per andare a vedere in un castello un quadro di Elstir o un arazzo gotico, assomigliava talmente al giorno in cui sarei dovuto partire per Venezia o ero andato ad ascoltare la Berma o ero partito per Balbec, da farmi presentire come l'oggetto attuale del mio sacrificio m'avrebbe lasciato, di lì a poco, indifferente, e come avrei potuto, allora, passargli vicinissimo senza degnare di un'occhiata quel quadro o quell'arazzo per i quali avrei affrontato adesso tante notti insonni e tante crisi dolorose. Dall'instabilità del suo oggetto misuravo la vanità del mio sforzo e nello stesso tempo la sua incredibile enormità, come quei nevrastenici la cui stanchezza raddoppia se gli si fa notare che sono stanchi. Nell'attesa, il mio fantasticare rendeva prestigioso tutto ciò che adesso potesse ricollegarsi. E persino nei più carnali fra i miei desideri, sempre orientati in una certa direzione, concentrati attorno a una medesima fantasia, avrei potuto individuare il motore primo in un'idea cui avrei sacrificato la vita e al centro della quale, come nei sogni ad occhi aperti che facevo a Combray in giardino durante i miei pomeriggi di lettura, si collocava il concetto di perfezione. Non provai più l'indulgenza di un tempo per le giuste intenzioni di tenerezza o di collera che avevo riscontrate allora nella dizione e nella mimica di Aricia, Ismeneo e Ippolito. Non che gli artisti erano gli stessi, non cercassero sempre, con immutata intelligenza, di imprimere qua alla loro voce un'inflessione carezzevole o una calcolata ambiguità, là i loro gesti un'ampiezza tragica o una dolcezza supplichevole. Le loro intonazioni ordinavano alla voce: «Sii dolce, canta come un usignolo, accarezza», o al contrario: «Devi diventare furiosa». Dopodiché l'aggredivano per cercare di coinvolgerla nella propria frenesia. Ma quella, ribelle, estranea alla dizione, continuava ad essere irriducibilmente la loro voce naturale, con i suoi difetti o pregi materiali, la sua volgarità o affettazione quotidiana, mettendo così a nudo un insieme di fenomeni acustici o sociali su cui il senso dei versi recitati non incideva affatto. Analogamente, il gesto degli attori ingiungeva alle loro braccia e ai loro pepli: «Siate maestosi!» Ma le indocili membra lasciavano che fra spalla e gomito si pavoneggiasse un bicipite del tutto ignaro della parte. Continuavano ad esprimere la mediocrità della vita di ogni giorno e a far risaltare, anziché le sfumature rassiniane, alcune connessioni muscolari. E i drappeggi, non appena sollevati, ricadevano secondo una verticale in cui le leggi della caduta dei gravi erano mitigate solo dall'insipida morbidezza del tessuto. A questo punto la piccola signora che mi sedeva accanto esclamò: «Nemmeno un applauso! È come infagottata! Ma è troppo vecchia, non ce la fa più! In questi casi è meglio rinunciare!» Agli zitti dei vicini, i due giovani accompagnatori cercarono di farla stare tranquilla e il furore che l'agitava, non trovando più sfogo, si concentrò tutto nelle sue occhiate. Tale furore, d'altronde, poteva dirigersi solo contro il successo, la gloria, giacché alla Bermà, dopo tanti lauti guadagni, non erano rimasti che debiti. Continuava a prendere appuntamenti di lavoro o d'amicizia che non poteva rispettare. E così, in ogni strada c'era qualche fattorino che correva a disdire i suoi impegni, in ogni albergo qualche appartamento prenotato dove non avrebbe mai alloggiato, e oceani di profumo per lavare le sue cagne e penali da pagare a tutti i direttori. Meno voluttuosa di Cleopatra, in mancanza di spese più rilevanti, avrebbe trovato modo di dilapidare province e reami in pneumatici e in vetture a noleggio. Ma la piccola signora era un'attrice che, non avendo avuto fortuna, aveva giurato alla Bermà un odio mortale. La Bermà era appena entrata in scena. E allora, prodigio! Come quelle lezioni che ci siamo invano affannati ad assimilare la sera e che ritroviamo in noi, parola per parola, dopo aver dormito, o come i volti dei morti che gli sforzi appassionati della memoria inseguono senza successo e poi, quando non ci pensiamo più, compaiono di colpo davanti ai nostri occhi con la somiglianza della vita. Così il talento della Bermà, che mi era sfuggito quando cercavo con tanta avidità di afferrarne l'essenza, adesso, dopo anni d'oblio, in un momento di indifferenza, si imponeva la mia ammirazione con la forza dell'evidenza. Per tentare di isolarlo, quel talento, in altri tempi io avevo, per così dire, defalcato da ciò che ascoltavo la parte in quanto tale, quel qualcosa che era comune a tutte le attrici chiamate a interpretare Phèdre e che io avevo preventivamente studiato per essere in grado di sottrarlo, ricavandone come residuo il puro talento di Madame Bermà. Ma il talento da me ricercato al di fuori della parte faceva in realtà tutt'uno con essa. Non diversamente, un grande musicista che suona, tale sembra fosse il caso di Vinteuil quando suonava il piano, è un pianista così grande che non si sa più nemmeno se sia un pianista, perché, senza la mediazione di quell'apparato di sforzi digitali coronati qua e là da effetti brillanti, senza tutto quel polverone di note nel quale l'ascoltatore che non sa che cosa appigliarsi presume di cogliere il talento almeno nella sua realtà materiale e tangibile, l'esecuzione si fa così trasparente, così pregna di quello che va interpretando, che non la si vede più, semplice finestra ormai spalancata su un capolavoro. Le intenzioni che circondavano come una bordura maestosa o delicata la voce e la mimica di Aricia, Ismene, Ippolito, ero riuscito a distinguerle. Ma Phèdre se l'era interiorizzate e il mio intelletto non aveva potuto staccare dalla dizione e dalle movenze, afferrandoli nella vara semplicità delle loro superfici uniformi, le trovate gli effetti che, profondamente riassorbiti in esse, non ne sporgevano affatto. La voce della Bermà, nella quale non rimaneva più alcun residuo di materia inerte e refrattaria allo spirito, non lasciava scorgere intorno a sé quelle lacrime in eccesso che si vedevano scorrere, poiché non avevano potuto impregnarla, sulla voce marmorea di Aricia o di Ismene. ma era stata delicatamente ammorbidita in ogni sua minima cellula, come lo strumento di un grande violinista di cui, quando si dice che ha un bel suono, si vuol lodare non già una particolarità fisica, ma una superiorità d'anima. E come in un paesaggio antico, dove al posto di una ninfa scomparsa vi è una fonte inanimata, così, in quella voce, un'intenzione discernibile e concreta si era convertita in qualche qualità timbrica di una strana, appropriata e fredda limpidezza. Le braccia della Permà, che i versi stessi, grazie alla stessa emissione con cui la voce le usciva dalle labbra, parevano sollevarle dal petto come foglie smosse dal fluire dell'acqua. L'atteggiamento sulla scena che, lentamente costruito, si sarebbe ancora modificato e che lei nutriva di ragionamenti ben altrimenti profondi rispetto a quelli di cui si scorgeva la traccia nei gesti dei suoi compagni, ma ragionamenti che avevano perduto ogni origine volontaria, che si erano fusi in una sorta di radiazione nella quale facevano palpitare attorno al personaggio di Fedra elementi ricchi e complessi che l'affascinato spettatore accoglieva non come un esito raggiunto dall'artista, ma come un'offerta della vita. Quei veli bianchi persino che sembravano estenuati e fedeli materia vivente e pareva fossero stati filati dalla sofferenza per metà pagana, per metà giansenista, intorno alla quale si contraevano come un bozzolo fragile e infreddolito. Tutto questo, voce, atteggiamenti, gesti, veli, creava, circondandone quel corpo di un'idea che è un verso, un corpo che, al contrario dei corpi umani, non è davanti all'anima come un ostacolo opaco che impedisce di scorgerla, ma come un purificato, spiritualizzato vestimento in cui essa si effonda e in cui la si ritrova, creava una sorta di involucri supplementari i quali, anziché nasconderla, rivelavano più splendidamente l'anima che li aveva assimilati e vi si era diffusa, delle colate di varie sostanze diventate traslucide, la cui sovrapposizione non fa che rifrangere più riccamente il raggio centrale prigioniero che l'attraversa, rendendone più estesa, più preziosa e bella la materia intrisa di fiamma che lo inguaina. Così l'interpretazione della Permà formava intorno all'opera una seconda opera vivificata a sua volta dal genio. La mia attuale impressione, più gradevole dell'antica, in effetti non ne differiva, solo che non la mettevo più a raffronto con un'idea a priori astratta e falsa del genio drammatico, e mi rendevo conto che il genio drammatico non era altro che questo. Stavo scoprendo che se non avevo provato piacere sentendo per la prima volta la Permà, era stato perché, come un tempo, quando incontravo Gilberta e Champs-Élysées, c'ero andato con troppo desiderio. Fra le due delusioni, forse, non c'era solo questa somiglianza, ce n'era anche un'altra, più profonda. L'impressione prodotta in noi da una persona, da un'opera o da un'interpretazione fortemente caratterizzate ha qualcosa di particolare. Ci siamo portati dietro le idee di bellezza, grandiosità di stile, pathos, che a rigore potremmo illuderci di riconoscere nella banalità di un talento, di un volto corretti. E invece il nostro intelletto si misura con l'insistenza di una forma della quale non possiede alcun equivalente mentale, da cui deve estrarre un'essenza ignota. Sente un suono acuto, un'intonazione stranamente interrogativa, si domanda: è bello? È ammirazione quella che provo? È questa la ricchezza coloristica, la nobiltà, la potenza? E a rispondere, di nuovo, è una voce acuta, un tono curiosamente indagatore, l'impressione di dispotismo provocata da un essere che non conosciamo, un'impressione affatto materiale e che non lascia il minimo spazio alla vastità dell'interpretazione. Ed è per questo che le opere veramente belle, se le ascoltiamo con sincerità, sono quelle destinate a deluderci di più, giacché la collezione delle nostre idee non ne ospita nessuna che corrisponda a un'impressione individuale.